brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Non so se esattamente oggi possa essere considerata come un'appendice della puntata di ieri sulle metafisiche immaginifiche datrici strumentali. Fatto sta che oggi vogliamo considerare il rovescio di quella medaglia, vogliamo considerare l'altra faccia di quell'universo frastagliato e misterioso che è quella dei padri casalinghi. Già, la promessa di dar fuoco alla casa, immagino, ma con una candela non ci riuscirai mai, tesoro mio. Tieni, vuoi l'accendino? Basta, non essere ridicolo! Fino a quando sarò io a nutrirti e ad alloggiarti, farai quel che voglio io. O non c'è che una soluzione, il riformatorio. Non sai cos'è un riformatorio? Ebbene, lo imparerai a tue spese. Li filerai dritto, vedrai. Questa è una figura tradizionale di padre. Padre, Dio assoluto della famiglia. Io ricordo mia nonna che tutte le mattine portava fuori dalla camera da letto dei nonni il pitale pieno del nonno. E mi domandavo, ma perché mio nonno, che c'ha il gabinetto di fronte alla camera da letto, deve fare la pipì nel pitale per costringere mia nonna a portarla fuori? Perché era un segno di autorità, era un segno di sudditanza, era un segno di regalità riconosciuta. Il nonno la faceva nel pitale e la nonna la portava fuori tutte le mattine. Quello era un padre all'antica. Oggi le cose lievemente stanno cambiando. Io ho un bambino che tra poco farà 11 anni e spesso e volentieri da piccolo mi tornava a casa abbastanza pestato. Lui ha una gran forza, ma è di una bontà incredibile. Al che mi sono arrabbiato e gli ho detto: d'ora in avanti, la prima volta che vieni a casa pestato, ti do il resto. Impara a difenderti e fatti valere. Ho sentito il frenificante intervento di una signora che era tutta fiera del fatto che avremmo una nuova generazione di maschi perché i bambini nella scuola materna di suo figlio finalmente hanno ripreso a picchiarsi. Io sono un uomo, credo. Ho due bambini adottati, di cui uno maschio. Spero che mio figlio non dimostrerà la sua mascolinità picchiando gli altri. Io sono terrorizzato da quel fatto che una donna possa aver detto una cosa così spaventosa, ma ormai temo che non sarà l'unica. Salve. Cercherò di rappresentare per quanto possibile, un po' basando sulla mia esperienza, un po' basandomi sul colpo d'occhio, su ciò che guardo, che vedo, che osservo intorno a me, quale sia oggi il difficilissimo discrimine fra mantenere vivace, viva, la propria centralità, la propria mascolinità, la propria virilità, che sono tutti termini per quanto facciano schifo, per quanto siano demonizzati, che fanno parte dell'equilibrio che mantiene in piedi la società, mantiene l'armonia fra le genti, se possibile, e scusatemi, ma ancora il mio fisico è fortemente minato, quindi sto cercando di fare il possibile per mantenerlo in vita. Dicevo, e per quanto possibile invece armonizzare questa spinta sempre così precariamente messa a repentaglio, a prova, con la necessità comunque di collaborare effettivamente al nuovo assetto della famiglia. Oggi le famiglie non sono più articolate in padri, padroni che costringono a trasporti e transumanze di pitali per la casa alle mogli, che costringono i figli alle una tutti a casa, la casa non è un albergo, sedetevi e mangiatevi e non si comincia a mangiare finché non inizia il papà e via dicendo. Non è colui a cui fa riferimento tutte le gratificazioni e tutte le repressioni nella famiglia, lo dico a tuo padre, se lo sa tuo padre. Cosa succede se questa cosa viene a saperla tuo padre? Ecco, il padre era sempre considerato una sorta di autorità indiscussa e di feroce vindice armonizzatore di quelle che erano le tensioni familiari. Oggi il padre è tutt'altra cosa. Oggi il padre è colui che divide con la madre alcuni oneri con maggiore o minore volontà, con maggiore o minore perizia, ma è colui che deve essere capace comunque di cucinare, di mettere i panni in lavatrice, di organizzare alcune vicende banalmente domestiche, di prendere i figli, di occuparsi dei figli quando non c'è la moglie. Se entrambi lavorano non c'è altra alternativa. Devo dire che è piuttosto rara però questa condizione, ancora esiste una sorta di retrogusto burino che considera l'uomo abbastanza restio a occuparsi di cose che per tradizione se ne sono sempre occupate le donne. Io mi sono accorto, ad esempio, di essere bravissimo a cucinare. Non l'avrei mai detto, mai immaginato. Mi dà un gusto immenso. Certo, non mi dà gusto fare la minestrina ai figli, è una cosa che massacra le gonadi. Ma che ne so, una volta ho capito che i fornelli sono qualcosa che procurano piacere e divertimento a chi ti sta attorno, è divertente, ma questo l'ho acquisito. Mio padre penso che non sia manco nemmeno capace di farsi un uovo al padellino, mai, si rimane solo muore di fame, ma è così, è giusto, la sua generazione prevedeva questo. 800240024, come state vivendo la trasformazione da uomo a quasi uomo, perlomeno in famiglia, e come riuscite a ritrovare gli spazi della vostra mascolinità in questa occorrenza? Sapete dove l'ho trovata? A Marina del Corvo, sulla spiaggia, in compagnia di un mascolo era, assieme ad altri due. No, c'è due mascoli? No, un mascolo e una femmina, bottana, come lei. Va bene, va. Bene, bene, fascista, se lo meritava. Francuzzo, fammi favore, non ne parlare con nessuno, eh? Stai tranquillo, salutiamo, salutiamo. Francuzzo non parla, non ce lo dice nemmeno la moglie. Non ti deve preoccupare. Allora, vero è? Se Annunziatina mi disse che Anna l'hanno trovata con quel mascolo dentro una cabina del telefono. No! Questo è tratto da Volevo i pantaloni, Lara Cardella, un libro che denunciò una forse 20 anni fa, mi ricordo che al tempo andai nel paese Lara Cardella, che siamo ancora amici seppur a distanza, a vedere la situazione di questa ragazza siciliana che aveva fatto un romanzo per Mondadori, che era stato lanciato dal salotto di Maurizio Costanzo, che dimostrava che ancora esistevano delle sacche di arretratezza totale nella provincia siciliana. Non poteva andare per strada leccando il gelato, perché era già questo sintomo di natura di donna perduta, e soprattutto il rapporto con il padre, con cui poi non voglio anticiparvi il romanzo se non l'avete letto, ma comunque in cui c'era un legame che andava oltre, diciamo, l'affetto paterno, come spesso accade nei padri troppo autoritari, che si possono permettere nella loro visione del mondo anche autorità che vanno oltre il lecito. Beh, questa ragazza era massacrata. Questo è qualcosa che appartiene però al passato. Quanto appartiene al passato? Già mi sta scrivendo una ascoltatrice su Facebook dicendo che quello che sto dicendo in realtà sembra così lontana dalla realtà, ma è frutto del suo contrasto quotidiano con il padre. Immagino che sia una signora che abbia più di 30 anni. Gianni, buongiorno. Buongiorno, Mandy. Intervenivo in quanto, come dire, padre di 3 figlie femmine e marito di una donna femmina. Quindi, vabbè, ancora mio... qualcuno c'è che si muove nella consuetudine, diciamo, ecco. Sì, sì, per fortuna sono abbastanza fortuna per riattura. Io sono abbastanza banale in questo senso e ci tengo, se vogliamo. Comunque circondato da donne, questo mi sembra sia il dato tragico della sua esistenza. Sì, c'è solo un gatto maschio non praticante in casa mia. Che l'avrete già castrato, immagino. Sta buono lì, insomma. Comunque, al di là di questo, non si lamenta, questo è già buono. Il mio intervento è in questo senso. Io credo che le donne siano i veri uomini. Nel senso, non per banalità, ma vedo un po' come analizzo l'educazione che viene data alle bambine. Io ho 2 delle mie 3 bambine, sono in età scolare, sono elementari, e sia in una classe che nell'altra vedo un po' come vengono stimolate queste bambine a prevaricare, a vincere, ad essere aggressive, ad essere comunque al di sopra, a dimostrare costantemente la superiorità. E le madri stimolano molto spesso questo tipo di attività. Però Gianni, qua non vogliamo tagliare i panni addosso a nessuno, bisognerebbe anche allargare il punto d'occhio e vedere che uomini hanno accanto queste signore, sono così avvelenate. Ma potrei anche dirlo in un certo senso, è chiaro che non per fare del settarismo, però tutto questo esce soprattutto da un determinato substrato culturale che non è elevatissimo. La differenza le vedo, non voglio, ripeto, essere... Sì, guarda, io sono convinto che... Il vero progresso culturale, oltre l'alfabetizzazione e l'acquisizione di strumenti di elaborazione della realtà, sia quello di abbandonare il pregiudizio proprio in questi rapporti. Con grande leggerezza, secondo me, la persona intelligente, la persona di cultura può benissimo dare lo straccio per terra, pulire casa, poi immediatamente dopo mettersi la vestaglia di seta e invitare un'amica a bere champagne a casa sua, anche se ho citato la più burina delle soluzioni, delle esternazioni della virilità. Io credo di capire benissimo quello che vuoi dire, e soprattutto chi ascolta lo capisce. Cioè, io non ho problemi, infatti... a me non me ne importa nulla, non mi sento meno maschio, meno uomo, se mi serve di tirarmi sulle maniche e fare delle cose a casa. No, che... Io nel mio piccolo cerco di fare tutto quello che posso, specialmente con le bambine, credo di aver fatto la mamma per molto tempo insieme a mia moglie, chiaramente non mi sono mai vergognato e sono felice di questo, anzi io ritengo, come dire, dei poveri, se mi permette il termine, i padri che, ritenendosi tali e sicuramente avendo accanto una compagna che glielo permette, non scendono, anche qui tra virgolette, a fare le cose che normalmente vengono fatte dalle donne. Io sono felice di cambiare il pannolino a mia figlia che ha 4 mesi, lo sono stato per le altre, sono felice di stendermi a letto a leggere, a fare qualsiasi altra cosa con le mie bambine. Ecco, però il problema che vogliamo tirare fuori questa mattina, Gianni, è come si gestisce poi quel ruolo inalienabile di maschio all'interno della famiglia, all'interno della coppia, se si fanno queste cose. Si fanno dei passi indietro? Io penso di no, però questa è la domanda che faccio agli ascoltatori, perché il problema è dire: ma se faccio questo sono meno uomo, comando meno, ma i più grossi cornuti che io conosco nella vita, poi probabilmente mi ci metto anch'io, non voglio aggiungerlo agli altri, sono quelli che rivendicano ogni giorno la centralità del loro ruolo maschile in seno alla famiglia. La differenza che io ritengo non banale e non meramente dialettica sta nella differenza tra la parola uomo e la parola maschio. Maschio è un retaggio culturale, secondo me, lontano, abbandonato da volevo i pantaloni. Uomo è un altro discorso. Sia i maschi che gli uomini possono essere cornificati beatamente. Non perché quello sia non perché quello sia il termine di paragone, per far capire se uno difende tanto strenuamente il proprio ruolo in famiglia, che evidentemente ha paura di perdere prestigio, ma quanto fa perdere prestigio all'uomo occuparsi tranquillamente, quotidianamente, anche di ruoli che tradizionalmente sono sempre stati propri della donna, ma farlo sportivamente, con divertimento, non come se fosse una sorta di iattura, di miseria o di tristezza. Essere uomo all'interno di una famiglia è essere una persona, quindi essere uomo è molto più che essere maschio. Sentiamo cosa, la saluto, sentiamo cosa dice Emanuele. Emanuele, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. È un argomento spinoso, Emanuele, poi l'ho affrontato nella più zozza delle maniere, me ne rendo conto, ma ognuno segue la sua natura. No, io posso raccontare la mia esperienza di padre, sono padre da 11 mesi e come è cambiato il mio ruolo all'interno della coppia. Beh, ancora guardi, ma nemmeno ho assaggiato l'idea lontana di quello che significa, glielo dico io. Comunque, benvenuto. Sicuramente, perché già ora in questo periodo con febbroni alti da cavallo di mio figlio mi sta... Sì, ma niente, sono bazzecole, si figuri, fossero questi i problemi. Anzi, adesso uno... E anche a questa euforia divertita della novità, oh che bello, le notti insonni, lo racconta agli amici, il pannolino da cambiare, aspetti e vedrà. No, ma quello già dall'inizio mi sento abbastanza mammo, nonostante mantenga la mia virilità. Comunque, quello che intendevo dire... Aspetti anche per quello. Sì, quello che volevo dire io è che secondo me il ruolo dell'uomo e della donna all'interno della coppia deve essere definito e chiaro. Non dico che l'uomo deve portare necessariamente pantaloni, però secondo me un punto di riferimento, l'ultima voce che chiude il coro familiare comunque deve essere la figura maschile, nel senso che la madre secondo me deve essere un po' la complice del figlio, o comunque quella che deve scoprire i segreti, quella che ha contatto giorno per giorno, quella che comunque riesce a vedere tutti gli aspetti che magari noi uomini, non essendo moltissimo a casa per colpa del lavoro, magari ci sfuggono. Quindi secondo me è anche giusto che all'interno della famiglia ci sia una voce più complice, quella e più magari quella da con cui il figlio convince la madre, e poi l'ultima parola secondo me deve essere quella del padre, cioè bisogna che ci siano questi ruoli ben definiti. Io sono perfettamente d'accordo con lei, anche se dico qualcosa di estremamente impopolare. Alla fine quello che tutti chiedono, anche se in maniera sommessa, anche se in maniera indiretta, che l'uomo mantenga un suo ruolo, si prenda una sua responsabilità, certo. Se no altrimenti diventa una cooperativa, ma la vita di coppia non può essere una cooperativa, ci può essere una divisione dei compiti, ma ognuno deve avere le sue responsabilità, il suo peso. Volevo a questo punto introdurre due esperti, come sempre facciamo alla fine, dopo aver commensurato e collazionato le nostre misere esperienze in materia. È uscito recentemente un libro per Franco Angeli, Le comete, Se il papà fa il casalingo, come incarnare efficacemente il ruolo di mammo senza penalizzare la propria mascolinità, che è un po' il problema che ci stiamo ponendo. Gli autori sono Federico Nenzioni e Francesco Bacciglieri. E cominciamo con Federico Nenzioni. Io prendo a caso uno di voi due, non so esattamente come vi siete divisi i compiti. Nenzioni, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, lei ha sentito, io ho dato prima una estemporanea raccolta di pareri presi da quelli che ci hanno telefonato immediatamente sollecitati dal tema. Quanto abbiamo sfiorato il nucleo di questo problema? Beh, non l'avete sfiorato, l'avete direi centrato. Ecco, una cosa mi ha colpito, l'ultimo intervento dell'ascoltatore, il quale appunto ha cercato di delineare il ruolo della madre e quello del padre, dicendo che la madre deve essere complice dei figli, no? Io non è che sia molto d'accordo su questa affermazione. Io penso che la madre debba essere la confidente dei figli. Il padre invece deve in qualche modo, ecco, supportando la moglie, trovare e suggerire delle soluzioni ai problemi e alle situazioni che emergono. Quali, per esperienza, io le posso dire che la cosa più terrificante è quando i figli diventano territorio di contrasto o moneta di scambio o bilanciatori dei rapporti fra marito e moglie. Questo capita, al di là delle ottime intenzioni che ognuno ha, capita sempre. Però forse questo è il momento più delicato a cui bisogna fare maggiore attenzione. Pronto? C'è stata un'interruzione. Vabbè, vediamo intanto Amedeo, se riprendiamo l'ospite, che probabilmente in questa terremotata mattina ci saranno dei problemi lì. Amedeo. Ahmed, scusi, Ahmed. Ahmed. Chiedo scusa, Ahmed, avanti. Da dove? Ahmed è un nome che segnala una sua appartenenza probabilmente a un altro paese rispetto al nostro, o sbaglio? Assolutamente sì. Sono dal Marocco, però. Marocco. Io mi sento italiano. Lei vive in Italia? Sì, però. Sì, no. Nella contaminazione fra cultura e abitudini, evidentemente potrà dire qualcosa che noi magari non vediamo. Io sono intervenuto per quello, perché io sono cresciuto in un paese dove c'è il papà e il papà. Ah, cioè non ci piove, beh, chiaro. Sento, se no lo dico al papà. Però io sono sposata italiana, io ho una figlia di 8 anni e mezzo e ne arrivo un altro in questi giorni. Però sua moglie è italiana? Sì, è di Milano. Sì. Però io faccio un lavoro da donna. Io se arrivo prima metto a posto il tavolo, preparo da mangiare. La sera, dopo mangiato, passo l'alcol nel bagno, ma non mi vergogno di farlo. Ma perché dovrebbe vergognarsi? Il bagno lo sporca anche lei. È vero, però quando c'è da prendere delle decisioni, che è un po', diciamo, anche su un mutuo, su qualsiasi cosa, sul finanziamento, c'è da discutere, discutiamo. Cioè lei si prende la sua responsabilità, a un certo punto serve qualcuno che prenda una decisione, dice, mi faccio responsabile io. Esatto, sono le cose più pesanti, diciamo, io sono sempre il primo a dire la responsabilità me la prendo io. Mi sembra che, essendo lei portatore di una cultura abbastanza differente, perlomeno da quella che generalmente noi conosciamo e immaginiamo, abbiamo visto mutare alle nostre latitudini, ci dà come lettura comunque della sua esperienza che ancora alla fine qualcuno, al di là della distribuzione equa dei ruoli, anche quelli che possono sembrare mortificanti, occorre che mantenga un ruolo di centralità decisionale o di ultima parola. Dopo aver discusso e confrontato le opinioni, se c'è da prendere una decisione, qualcuno deve essere responsabile di questa decisione. Posso? Sì. No, ma è normale questo, perché c'è sempre qualcuno che prende la decisione, perché sulle cose che, ma per esempio il mutuo, c'è qualcuno che può decidere, può prendere la responsabilità. Perché sì, che se poi dopo non ci se la fa a pagarlo, qualcuno che si prende la responsabilità, ho fatto una stupidaggine io, ecco questo. Sì. Invece voglio intervenire sui figli. Io sì. Non metto mai mia figlia, chi c'è adesso, mia figlia che è grande, capisci? Non la metto mai come l'ago di bilancia. Io non ho mai detto che quello che dice papà è vero, che dice la mamma, io non la metto mai come l'ago di bilancia dove deve. Io sono sempre preciso che mia figlia deve fare ciò che è giusto, che dice la mamma è giusto, quello che dice papà è giusto. è questo il mio ragionamento. Ma se sua moglie è contenta, vivete in armonia, ben venga la vostra organizzazione familiare, io non ho pregiudizi, ognuno. Lo scopo finale è la felicità più equamente distribuita possibile tra i membri della famiglia. Melog 2.0. Hai ragione a prendermi in giro. Quando i padri vogliono occuparsi dei loro figli una tantum e tutto assieme, sono patetici. E si vorrebbero subito sapere tutto quello che non sanno da anni. Recuperare in fretta. Come certi studenti che durante l'anno non fanno niente e poi una settimana dagli esami. No, anzi, è il segno che vuole bene suo figlio. Mi parla spesso di lei, sa. Con lei Michele parla? Sì. Insomma, parla. Lo stupore di un padre, un film di scuola che ora è, nel capire che i figli hanno spazi di apertura che sono quelli verso il padre. I padri molte volte non si rendono conto di quanto creino delle chiuse invalicabili verso i figli. Sembra loro di dare tutto, sembra loro di essere disponibili, sembra loro impossibile che il figlio abbia delle risacche o delle riserve di personalità che non condivide con il padre, ma man mano che si cresce, si passa il tempo, ci si rende conto che i padri si allontanano sempre di più. Questo è fisiologico, ma questo è anche un segnale del tempo che passa, quindi bisogna anche comprendere i padri che si chiudono, che sono sempre più arcigni e che sono sempre più distanti. Insomma, è un'alchimia difficilissima. Stiamo cercando questa mattina di comporlo assieme agli autori di un libro, Se il papà fa il casalingo, edizione Franco Angeli, e il pubblico che telefona all'800 24 0024 come Lucio. Lucio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Qui si continua a confondere l'uomo con il maschio, come già accennato uno prima di me. Quindi se noi riusciamo a fare questa distinzione maschio, quindi tutte le pulsioni primitive, selvatiche, le chiami come gli pare, allora la donna viene considerata oggetto, eccetera, eccetera. E non riusciamo a dividere questo qui dall'uomo, che sarebbe il maschio che si è evoluto, quindi c'è un rapporto con la donna di umanità, ha superato quello stadio primitivo animale. Se non riusciamo a fare questa distinzione, qualsiasi cosa noi diciamo non ha senso, cioè non riusciamo ad arrivare alla soluzione. Perché sì, noi siccome siamo fatti anche di istinto, di condizionamenti, di cattive abitudini, di ottime abitudini, di riflessi e di imprinting familiari, sa, questo è un buon proposito, ma ci si accorge che molte volte è un aggiustamento quotidiano, minuto per minuto, quello che va fatto. Non è manco detto in assoluto che molte volte l'animalità, la bestialità o la durezza non siano strumenti necessari di gestione dei rapporti. Dico qualcosa che mi renderà molto impopolare. C'è anche la soluzione. Sì, beh, sentiamo. La vuole? La vuole. Allora, siccome io penso che è un percorso che io ho fatto da essere nel primo stadio maschio e poi diventare umano. E questo qui è successo, questa evoluzione è successa nel ballo di coppia, mentre prima la donna era considerata oggetto di desiderio, eccetera, eccetera. Beh, anche adesso ogni tanto, da qualche parte, anche adesso ogni tanto, quando si può, raramente ancora qualcosina suscita. Ma segua il discorso che gli sto facendo. Io ho iniziato a ballare in coppia. E qui ho ballato prima con una, con due, con tre, con l'altra. Allora, ballando con centinaia di donne, ho superato quel momento fisico di libidine, lo chiami come gli pare. E quindi sono entrato nella conoscenza e nel rapporto umano. Cioè no, quindi mi faccia capire bene. No, c'è un passaggio che mi sfugge. Dunque, lei ha ballato con centinaia di donne, quindi ha naturalizzato il rapporto con il corpo femminile. Bravo, lei prende uno che non ha il rapporto con la donna quotidiano, allora gli mette la mano nella gamba, sì, e va subito in sull'utero. Ma mica sempre. Quello stadio lì l'ho superato. Sì, ma io l'ho superato dopo i 30, 40 anni, non lo so, succede, sì, dico, diciamo, ma non è soltanto... Questo era un esempio, Sì, sì. Beh, comunque ho capito cosa vuol dire. Adesso faccio il malizioso e rompiscatole perché fa un papporto del personaggio. Poi io ho capito, lei dice, quando ho capito, ho rotto questo vincolo di unicità, di unica possibilità a 360 gradi, di avere anche la gratificazione di avere accanto il corpo di una donna. L'ho fatto in maniera che non mette in crisi il rapporto di fedeltà, l'unione matrimoniale. Sono molto più leggero, non ho bisogno in casa di impugnare lo scettro del maschio conquistatore. Quindi, ballando con altre donne, avendo il piacere indubbio di sentirsi sfiorare, di sentire il calore di un'altra donna addosso, di sentire quella complicità che c'è nel respiro, nel ballo, che non arriva mai però all'esplicitazione di ciò che è soltanto metafora, sono un marito molto più sereno. Questo vuole dire? La vera dizione del ballo è galleggiare nella musica. Sì. Capito? A differenza di Woody Allen che ha detto... Ogni tanto però dà anche gusto andare a fondo. Sì, sì, galleggiare no, voglio dire, anche perché sennò sembra sempre che nelle metafore abbiamo, nella sublimazione, la nostra natura umana finalmente si astrae. Galleggiare è bello, andare a fondo ogni tanto è ancora più bello. Sì, ho capito, quello lì può anche capitare, però il piacere del ballo è questo. Va bene, ok. Andiamo avanti. Allora, Francesco Bacciglieri, che è l'altro autore di questo libro, vediamo se è in linea. Sono qui, buongiorno. Ecco, vi abbiamo recuperato. Sì. Io sto divagando e sto menando un po' il can per l'aia, ma trovate che tutte queste esperienze, senza nessun costrutto e senza nessuna linea di rigore, siano complementari l'idea di poter riuscire in qualche maniera a conciliare la mascolinità con il ruolo di mammo? Ma guardi, la trasmissione fino a questo momento è molto centrata, perché il tema è questo, e anche le telefonate degli ascoltatori testimoniano appunto che no, siamo noi uomini in mezzo a un guado, nel senso che siamo probabilmente in una sorta di crisi di identità, no? Perché i padri non sono, come avete giustamente detto voi, sicuramente più quelli di una volta, ma non sono ancora probabilmente quello che saranno fra un po' di tempo. Quindi in questo viaggio, no, senza bussola, certamente c'è bisogno di un'identità. C'è tanta buona volontà, tanti miglioramenti rispetto al passato, però certamente si nota ancora, no, che magari talvolta questo ruolo di mammo, di casalingo, viene svolto dai padri un po' forzatamente, più perché magari si deve collaborare ad una gestione familiare complicata, complessa, che non per un'adesione, no, spontanea. Certamente. Beh, non è che nessuno di noi si sente una natura incline a dare l'acido dentro la tazza al gabinetto, però se bisogna farlo si fa. Certo, infatti ovviamente come mettere d'accordo le esigenze, perché certamente i figli non c'è dubbio che abbiano bisogno, no, di questa affettività che deriva loro non solo dalla madre ma anche dal padre, questa affettività. Però l'ascoltatore che diceva del ballo, secondo me, ha introdotto un tema importante: l'uscita da questa esclusività coatta del rapporto, molte volte aprirsi, avere delle vie di fuga, ma poi uno le con la gradazione che ognuno si sente di poter sopportare e mantenersi, questo dipende anche dalle equazioni individuali. Questo signore va a ballare, dice, ho abbracciato tante donne, torno a casa più sereno, qualcun altro potrebbe anche fare di più o di meno, però darsi delle piccole vacanze dello spirito, a volte anche della carne, serve. Ma può essere, sicuramente ognuno poi ha le sue valvole di sfogo, per questo signore può essere questo, per un altro un'altra cosa. Certamente nell'ambito di quello che noi abbiamo cercato di spiegare in questo libro, le due cose forse si possono mettere d'accordo, però diciamo, mettendo insieme l'amorevolezza con la fermezza, mettendo insieme aspetti contrastanti, quindi in questo caso mantenere la propria maschilità, essendo affettivi nei confronti dei figli, ma anche mantenendo il ruolo di padre, che è quello che si estrinseca con un codice tipico che è diverso da quello materno. Io penso che la sicurezza e la compattezza dell'uomo di essere centrale rispetto anche a un mondo femminile molte volte richieda anche dei confronti che vadano fuori la stretta osservazione familiare. Insomma, ne avrebbe vantaggio sia il padre che la madre se ogni tanto ognuno di loro si facesse una vacanza da solo, una passeggiata, una cena con amici o amiche. Non voglio entrare in ruoli innominabili, però avere un po' di elasticità. Molte volte quando la famiglia viene vissuta come una gabbia, anche queste piccole funzioni quotidiane necessarie sono considerate una sorta di corvée da fare per lo schiavista. Però mantenendo poi, al di là dei momenti di svago che possono essere anche appunto ognuno per conto proprio, però quel ruolo educativo che deve essere poi fondamentale all'interno di una famiglia. Io secondo me i figli quando vedono il papà e la mamma che sorridono e sono allegri, assolutamente, vivono più tranquilli. Assolutamente, assolutamente. Elisa, buongiorno. Sentiamo Elisa. Buongiorno. Finalmente una donna. Dicevo. Cioè, ieri sulle dazioni eravate compatte, oggi parliamo di padri, vi nascondete. Prego. Davvero, dicevo che il rapporto uomo-donna, marito-moglie, compagno-compagna, insomma non sottilizziamo, è diventato una specie di guerra da quando le donne hanno rivendicato un ruolo un pochino più pregnante nell'ambito non solo della società ma anche della famiglia. E io dicevo che di solito l'uomo tende a confondere il suo ruolo, nel senso che si sente maschio, portata ancora a soverchiare, come fosse effettivamente una guerra che non dovrebbe essere. Beh, un po' è un piccolo gioco che tiene vivo il rapporto, diciamo la verità. Ma se fosse inteso in senso costruttivo, se ci fosse dell'autoironia, sì, però in certe situazioni, io ho 60 anni, mio marito quasi 70, e abbiamo avuto due figli dopo i 40 anni, e le assicuro che sta diventando una vera e propria guerra, perché essendo lui in pensione, cosa succede? Che rivendica spazi che tradizionalmente sono stati femminili, non so preparare la colazione ai ragazzi la mattina. Perché lei non glielo fa fare, se ne va a fare una passeggiata? Io lo faccio fare, io resto a letto fino a che lui non ha fatto. E però... cosa vuole più dalla provvidenza, mi scusi? Come dice? Cosa vuole di più dalla provvidenza? Cosa voglio di più? Voglio che ogni volta che si parla dei figli, perché quello è il terreno di scontro, non fosse sempre una battaglia. Cioè quella telefonata di circa 10 minuti fa diceva la mamma è la confidente e poi il papà interviene chiacchierando con la mamma. E invece anche questo dà fastidio a mio marito come a tanti altri uomini. Beh, avete anche un'età in cui i figli, adesso non so quanti anni abbiano. 20 anni. Eh sì, però comincia a essere il momento che anche i figli considerino la vita come qualcosa sì, distaccato sì, sì. Dalla casa madre. Certamente, certamente, ma siccome vivono con noi, il gioco forza, i rapporti si intersecano. Io dicevo alla signorina con la quale ho parlato, siccome mio marito è un estimatore di Radio 24 da quando cominciate fino a che finite, in macchina come a casa, sì. Di insistere su questo argomento, di questi ruoli, di questa complicità fra marito e moglie, uomo e donna. Ieri abbiamo parlato delle datrici strumentali, più che quello, si figuri, tocchiamo tutti i campi, dal più originoso al più etico, come appunto oggi. Melog 2.0. Lei come vive, signor Quirino? Che lavoro fa? Io faccio il padre, quando serve pure la madre. Ma non stiamo mica scherzando, vero? E chi scherza? Che occupasse un ragazzino non è il lavoro. Da quando è nato Pandolini, Biberò, Ucci Ucci, Rinna O, tutte le sere. Voglio sapere che entrate c'ha, signor Quirino. Cioè, l'entrata dalla porta. Risponda alla mia domanda. Che lavoro fa? Ma io ho detto prima, scusi, mi devo occupare di mio figlio. Ah, ho capito che vuol dire lei. Lei parla del secondo lavoro. È vero. Ah, io gli giuro, ho cercato tanto, ma pare che sto secondo lavoro o danno soltanto a uno che già c'è il primo. Questa era Manolesta, Thomas Millian. Donato, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo dare insomma la mia piccola testimonianza per quanto riguarda diciamo il fatto di collaborare in famiglia. Io consiglierei a tutti di farlo tranquillamente senza avere paura di essere considerati meno maschi rispetto ad altre persone, soprattutto in situazioni quando uno è emigrante, nel senso che fuori non ha persone su cui appoggiarsi, quindi lei è migrante di necessità virtù e deve sì, ma perché deve... ha citato lei è migrante, cioè lontano sì, da casa, nel senso sì, sono meridionale e lavoro a Pistoia, quindi quando sono nati i miei figli ho avuto la gioia di poterli accudire, ad aiutare in casa. Sinceramente non me ne vergogno assolutamente, né tanto io penso proprio che il momento sì, la vergogna dell'essere meno maschi, forse ci stiamo rendendo conto che è abbastanza superato, forse facendo così sì, agli occhi di altre persone può sembrare... Ma molte volte è una scusa perché uno non c'ha voglia semplicemente o non è capace a organizzarsi su cose che paiono semplicissime ma richiedono un minimo di articolazione. Claudio, buongiorno. Ciao, buongiorno. Guarda, veramente è un argomento centratissimo. Io sono un papà e con due bellissime figlie, quindi figurati, sostanzialmente il tema del mammo, il tema del secondo lavoro, del primo lavoro, bellissimo, stupendo, proprio centrato. Però vedi, riflettendo proprio in questi ultimi secondi, quello che mi ricordo della mia vita attuale e del fatto che quando io faccio diciamo i cosiddetti lavori che non faceva mio papà o che comunque insomma l'uomo non faceva, sostanzialmente che cosa è che mi succede? Mi succede che quando io lo faccio e cerco di farlo bene, attenzione, non è che lo faccio alla carlona. Sa però una cosa, posso dirti una cosa? Stanno arrivando molti messaggi, soprattutto su Facebook, dove ci sono signore che hanno la spregiudicatezza del fatto di poter scrivere senza essere chiamate in prima persona, che dicono sì, però sembra l'altra faccia della luna. In radio sento soltanto Isole Felici, mi scrive Luna Chiara. La realtà rappresentata dai miei clienti è completamente diversa. Depressione, sopraffazione e violenza regnano sovrani. È vero. Non faccia tutti finta di essere buoni, poi in realtà siamo delle bestie. No, perché io mi sento, io sì, un po' sì. Diciamo, c'è una frustrazione. Cioè, faccio una cosa, qualsiasi io la cosa la faccio, cerco di farla bene, poi io voglio dire, no, so cucinare bene, vabbè, e via dicendo, faccio le cose di casa. Però, non prendi mai l'iniziativa. Prendo l'iniziativa, la faccio male. Faccio questo, la faccio male. Faccio questo, Se lei ancora si preoccupa dei giudizi di una moglie, deve ancora capire molto il matrimonio. Non è questo che deve darci la ragione della giustezza in quello in cui ci muoviamo. Essere maschio, però, voglio dire, insomma, io capisco perfettamente cosa devi dire. Essere maschio è guardare con placida superiorità il giudizio acido di una moglie che sente sopraffatta e fare quello che a noi fa piacere. Silvia, buongiorno. Buongiorno. Io invece volevo chiedere a quella signora se basta davvero la pensione, perché anche noi differenziamo di 10 anni. Io ne ho 40 e mio marito 50, ma lui è un gran lavoratore. Non lo vedo mai, pochissimo, e quando è a casa non c'è per i lavori domestici, assolutamente. Quindi, ma se lei sta bene, è una formula di felicità anche questa, è mica un obbligo avere il marito casalingo, No, infatti dico, mi farebbe piacere avere il marito casalingo. Ah, lei vorrebbe. Un minimo, perché in realtà per me, che sono stata casalinga, è stato molto bello, ma è stata anche molto dura. Quindi la condivisione di certi ruoli, che io comunque non ho potuto avere, sarebbe stata veramente bella. Però posso dire una cosa? A 50 anni è un po' difficile che un uomo cambi la sua equazione esistenziale. No, ma infatti io non pretendo il cambiamento perché sarebbe... Forse anche lei un pochino, alla fine dà gusto infilargli le pantofole e accudirlo, che faccia al sultano, farà parte dei vostri piaceri nascosti, perché se no gli metteva la ramazza in mano e cioè fallo te. No, in effetti non lo fa lui, lo fa un'altra persona per lui, però in qualche modo mi sono presa i miei spazi, perché la divisione netta dei ruoli è veramente difficile. E i suoi spazi se li prende in casa o fuori casa? I miei spazi li prendo perché sono diventata nel frattempo un'insegnante di yoga, quindi mi sono arrabattata in un altro modo, per non dedicarmi solo e soltanto alla famiglia. Però indubbiamente ho le uscite con le amiche, ho le uscite al cinema, sempre poche, essendo sola con i miei figli per tutta la settimana, però... È meraviglioso quando si incastrano le esigenze di entrambi. Va bene, io dico sempre, contenti voi, contenti tutti. Velocemente, Federico Nenzioni l'abbiamo recuperato, se il papà fa il casalingo è l'autore di uno dei due libri. Come vede, esistono una sfumatura infinita di situazioni in cui alla fine l'alchimia perfetta diventa la felicità, come penso io, equamente distribuita per quanto sia possibile fra tutti i membri della famiglia. Certo, io direi che sì, a questo punto è il caso di fare una sintesi, no? Dunque, il padre deve essere amorevole, come amorevole deve essere la madre. E questa amorevolezza, naturalmente, dovrebbe in qualche modo generare nei figli un certo tipo di rispetto nei riguardi del padre. Cioè, in altre parole, il padre non deve essere autoritario, ma deve essere autorevole. E questo è proprio con la forza dell'esempio e soprattutto con una condotta coerente che si può conquistare la stima e l'affetto dei figli. Però lei mi insegna un po', molto dipende anche dalla famiglia d'origine del padre, un padre che ha subito l'anaffettività o la violenza o la durezza o il rigore o la non confidenza, farà un grande sforzo per considerarli come delle conquiste nella sua famiglia. Ma certo, ma certamente, questa è una grossa difficoltà. Io direi che un po' tutti quanti noi ci dibattiamo in problemi di questo tipo. Però il padre deve, come diceva Giuseppe Berto nel Male Oscuro, deve essere in qualche modo consapevole che il rapporto d'amore fra padre e figli non deve essere necessariamente reversibile. Cioè, in altre parole, il padre non può pretendere che un figlio lo ami con la stessa intensità con la quale lui lo ama e con la stessa qualità d'amore. Questo è una cosa molto giusta, perché a un certo punto, quando il figlio cresce, diventa adolescente, uno non c'ha più quel bambino che dipende da te, che pende le tue labbra, i suoi bisogni solo te puoi soddisfarli, ha un po' di piccola delusione quando vede il figlio prendere la sua strada. Bisogna avere coraggio di dire: è il momento che se ne vada con le sue gambe, anzi, prima se ne va e meglio è per noi e per lui. Giulia, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca, mi scuso per la voce perché degli strani bacilli mutageni mi costringono all'influenza da giorni, giorni e giorni. Lo però... so, chi molto si contamina, molto a bacilli. Che dire. Beh, comunque, a parte il fatto che io sono assolutamente d'accordo sul punto che il padre deve essere autorevole, non autoritario, e va bene. Però... Cioè, beh, queste sono chiacchiere, che significa in sintesi? Che allora, deve fare? Allora, secondo me il padre deve trasmettere al figlio un senso di grande sicurezza e di grande fermezza, deve essere un esempio perché il figlio cresca con una buona sicurezza e con una buona autostima. Quindi Giulia, vediamo se sei d'accordo. Noi uomini che soffriamo di un'infinità di nevrosi quotidiane, di insicurezze, di spaventi, almeno verso i figli dobbiamo fare di tutto perché ciò non traspaia. Traspaia in maniera umana, ma non una sopraffazione al loro bisogno di sicurezza. Io direi che sono assolutamente d'accordo su questo punto, però ecco, c'è una piccolissima parentesi. Ma noi chi ci pensa che vorrei dopo? Aprire, no? C'è una piccolissima parentesi che vorrei aprire su quello che hanno detto taluni ascoltatori in precedenza sull'evoluzione da maschio ad uomo, però qua io veramente potrei chiamare in causa un noto politico avvocato dei nostri tempi che dice sempre ma va là, ma io dico veramente ma va là a queste persone, porca miseria, siamo nel 2010, sembra che stiamo parlando dell'evoluzione dall'Australopithecus all'Homo sapiens sapiens, santo cielo, ma anche la gioia di essere in primis maschi e poi padri. Io credo e ritengo che per tutte le persone, uomo e donna, la paternità o la maternità debba costituire una gioia grandissima e non ancora andare a trincerarsi dietro a queste guerre, a questa lotta tra l'uomo e la donna. Lo so, privilegi o di meno, basta. Basta, sì, in linea teorica sembra facilissimo, ma in linea pratica, scontrandoci ogni giorno con la nostra umana natura, che noi uomini civilizzati combattiamo e prolunghiamo verso vette che ci sembrano sublimi, ahimè, il problema c'è, ma noi l'abbiamo per quanto possibile questa mattina trattato con grande sincerità. Ringrazio Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.